Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Erano poveri, affamati, sporchi. E io e il mio amico eravamo due europei che neanche lontanamente avevano mai immaginato quelle condizioni di vita. Mi feci coraggio, tirai su la sicura della portiera, aprii e calai in mezzo a loro. Abbassarono i macete, si zittirono e ci fecero passare. Ciao, sono Massimo, vivo a Vasto, in provincia di Chieti, ho 43 anni e vendo camion. Dunque, per farla breve, prendemmo a bordo alcuni marinai. Facemmo un buon viaggio di ritorno e l'Ispagnola giunse a Bristol proprio quando il signor Blandley cominciava a pensare di armare la nave di soccorso. Di quelli che si erano imbarcati, soltanto in 5 tornavano. La bottiglia e il demonio hanno pensato al resto, senza pietà. Anche se di certo noi non eravamo in condizioni così pietose come quell'altra nave della canzone, ed uno solo si riuscì a salvare dei 75 che si misero in mare. Ognuno di noi ricevette una parte consistente del tesoro e ne fece uso saggio o sconsiderato, a seconda della propria natura. Il capitano Smollett si è adesso ritirato dalla vita di mare. Gray non solo ha risparmiato il proprio denaro, ma, preso dall'improvviso desiderio di farsi una posizione, si è anche messo a studiare seriamente. Adesso è secondo e comproprietario di una nave bella e ben attrezzata e ha anche messo su famiglia. Quanto a Ben Gunn, ha ricevuto 1000 sterline, che ha dilapidato o perduto in 3 settimane, o, per essere più precisi, in 19 giorni, visto che il 20° era già tornato a chiedere aiuto. Allora gli è stato dato un posto di custode, proprio come aveva temuto quando era sull'isola. Egli vive tuttora beniamino e anche un po' zimbello dei ragazzi del luogo e canta in chiesa la domenica e le feste comandate. Di Silver, invece, non abbiamo più saputo nulla. Quel formidabile uomo di mare con una gamba sola è infine sparito dalla mia vita. Ma mi azzarderei a dire che abbia ritrovato la sua vecchia negra e forse fa una bella vita insieme a lei e al capitano Flint. Così almeno si spera, perché difficilmente sarà felice nell'altro mondo. I lingotti d'argento e le armi si trovano tuttora, per quel che ne so io, dove Flint li ha sotterrati. E per quanto mi riguarda, possono restare dove sono. Neppure un carro di buoi riuscirebbe a trascinarmi di nuovo su quell'isola maledetta. I miei incubi peggiori sono quelli nei quali odo i frangenti tuonare lungo le sue coste, o quando sobbalzo nel letto con la stridula voce del capitano Flint che mi rimbomba nelle orecchie: pezzi da otto! Pezzi da otto! Buongiorno a tutti, questa è Radio 24 e oggi chiudiamo, ahimè, questa settimana dedicata all'avventura, e quindi chiudiamo anche questa sorta di ad alta voce di Radio 24 in cui vi ho letto alcuni passaggi dell'Isola del Tesoro. Questo è proprio il finale, quando Jim arriva a casa e dice più o meno dove si trovano tutti, e l'unico di cui non si ha notizia è ovviamente Long John Silver. Tra l'altro, se ne volete sapere qualcosa di più, non chiaramente per mano di Robert Louis Stevenson, ma per mano di Björn Larsson, che è questo autore svedese, che non è Stieg Larsson, non è quello di Millennium, è un altro che scrive di navi, barche a vela e di libertà. C'è un libro magnifico che si chiama ce n'era scritti due su Long John Silver, la vera storia del pirata Long John Silver, in cui parla di questo personaggio incredibile. Parliamo di avventura, oggi chiudiamo questa settimana, chiudiamo appunto con l'Isola del Tesoro e chiudiamo soprattutto con la storia di Massimo. È una storia, questa direi forse tra le più avventurose davvero che abbiamo raccontato, perché quando ti trovi a rischio della tua vita, di fatto hai a che fare con l'avventura, cioè hai a che fare con una roba che non sai fino a dove arriverà. Lui mi scrive: ciao Matteo, ti invio il racconto di un episodio accaduto all'interno di un viaggio che ho fatto nel 95. Di solito è vero, ci si trova in viaggio e perché è lì che ti trovi ad incontrare qualcuno che non ti aspetti, e quindi voi immaginatevela così, è un po' come se fosse una sorta di Robin Hood dei tempi moderni, soprattutto nel Centro America. Ovunque vi troviate adesso, è vero che è luglio, magari siete in vacanza, invece magari no, siete in automobile, e allora dimenticatevelo, non siete in automobile per strada, siete su un fuoristrada nel mezzo della foresta e stanno per arrivare dei campesinos che non sono per niente amichevoli. Estate 1995, luglio. Io ed il mio amico di sempre siamo in Messico. Non abbiamo tappe stabilite. Giorno dopo giorno decidiamo dove spostarci. Unico obiettivo: scoprire e visitare più posti possibile. Abbiamo 25 anni, ci chiamiamo tutti e due Massimo. Non è un viaggio organizzato. Ci spostiamo con autobus locali, autostop, aerei improbabili stile narcotrafficanti e viviamo la vita dei locali. Certo, possiamo contare sulla nostra disponibilità in banca, cosa che qui in Messico ben pochi possono fare. Fortunatamente non facevo niente perché studiavo. Era l'ultimo anno in cui ero ancora senza lavoro. Prima che cominciassi a lavorare avevo 25-24 anni. Io e il mio compagno di viaggio viaggiavamo spesso in quegli anni e ci piaceva il Messico, andammo lì. In quegli anni non era ancora diffuso il turismo di massa low cost, quindi in posti come questo si incontravano ben pochi italiani. Pochi ragazzi. Il Messico era Cancun per i viaggi di nozze e lo Yucatan con tour organizzati. Noi alternavamo lunghi giorni nelle bettole più inospitali, a contatto con il vero Messico, a brevi soggiorni in alberghi di lusso dove ripulirci e ritemprarci. Erano gli anni del subcomandante Marcos. A dire il vero, era l'inizio della sua epopea e in Italia non eravamo al corrente di quello che succedeva da quelle parti. La televisione locale diffondeva immagini di continui massacri perpetrati o dai militari verso i campesinos oppure dai guerriglieri di Marcos verso i militari. Noi, in quei giorni, ci eravamo concessi un po' di relax ad Acapulco, albergo stupendo in riva al mare, belle spiagge, fantastiche ragazze e gente molto socievole con noi italiani che eravamo mosche bianche a quelle latitudini. Era però giunto il momento di fare sul serio. Quindi era ora di andare in Chiapas, cuore della rivolta di Marcos, ma anche il luogo dove vivevano comunità maya incontaminate. Ci stabiliamo quindi a San Cristobal de las Casas, se non ricordo male per 4 giorni, poi vi ritornammo una seconda volta dopo circa una settimana e mezza. Durante questo primo soggiorno decidemmo di andare a visitare le cascate di Agua Azul, formando un equipaggio con turisti messicani a bordo di una jeep. Eravamo 7 componenti più l'autista. A me era capitato il posto in fondo, nella seconda fila di sedili. Praticamente ero finito nel bagagliaio. Dopo oltre un'ora, le curve, il caldo, la strada dissestata mi avevano distrutto lo stomaco. Quindi invitai l'equipaggio a fermarsi per farmi respirare ed evitare i conati di vomito. In democrazia e con estrema gentilezza mi venne concesso di sedermi davanti con l'autista per evitare ulteriori soste e soprattutto per poter accedere al finestrino. Finalmente, con il finestrino spalancato, potevo procedere e godermi il panorama. Entrammo nelle foreste del Chiapas che conducevano alle cascate, ma improvvisamente un tronco posto di traverso costrinse l'autista a fermarsi. In meno di 10 secondi vedemmo correre fuori dalla foresta decine di campesinos e guerriglieri, chi a volto coperto, chi no, armati di macete, che accerchiarono la jeep. Urlavano tutti, agitavano la macchina e i macete. Cercavano di aprire la portiera e con difficoltà, dall'interno, resistevo alle loro cariche. La loro lingua era incomprensibile poiché parlavano uno strettissimo dialetto maya. Leggere la preoccupazione sul volto dell'autista mi fece agitare ancora di più. Finalmente si fece avanti un loro rappresentante che zittì la folla e intraprese una trattativa con l'autista. Neanche i componenti messicani del veicolo capivano quel dialetto. L'autista scuoteva la testa e diceva di no e loro cominciarono nuovamente ad agitare macchina e macete. La situazione stava diventando sempre più tesa, allora chiesi all'autista di spiegarmi quali erano le loro richieste. Lui, con imbarazzo, mi spiegò che chiedevano una tangente per lasciarci passare e ci obbligavano a partecipare, fuori dal veicolo, all'assemblea che di lì a poco un loro rappresentante avrebbe tenuto nel bel mezzo della foresta. La richiesta era in pesos e da quelle parti poteva sembrare un capitale. Per quel motivo capì la resistenza dell'autista. Poi però, insistendo, scoprì che ci chiedevano l'equivalente di 30.000 lire a testa. Fra vestiti, orologio, occhiali da sole, scarpe da trekking, macchina fotografica e soldi in tasca, io e il mio amico avevamo forse 50 volte quello che ci chiedevano. Quindi dissi all'autista che era un pazzo e che avremmo volentieri accettato la loro proposta. Loro erano poveri, affamati, sporchi. Io e il mio amico eravamo 2 europei che neanche lontanamente avevano mai immaginato quelle condizioni di vita e possedevamo di che sfamarli per parecchi mesi. È pazzesco, ma trovavo quasi giusto ciò che stava accadendo. Comunque mi feci coraggio, tirai sulla sicura della portiera, aprii e calai in mezzo a loro. Abbassarono i macete, si zittirono e ci fecero passare. Abbiamo avuto paura, però in quel momento ti succedono tante di quelle cose che non sai se avere paura, se cercare un modo di uscire da quella situazione, non sai che fare perché non parli la lingua, sono un mix di sensazioni, è ovvio che hai paura. Ripensarci adesso, più adesso che prima, che ti devo dire, però prima era un po' l'incoscienza, un po' il fatto di non immaginare che potesse andare a finire male. Allestirono una sorta di palco improvvisato nella foresta e un loro rappresentante salì a spiegare le loro ragioni. Ricordo che si lamentavano delle loro condizioni, ovviamente, ma soprattutto dell'assenza di un loro politico locale che li aveva abbandonati. Noi eravamo lì in mezzo a loro. L'autista traduceva in uno spagnolo comprensibile. Fu un momento indimenticabile di condivisione di umanità. L'assemblea durò una mezz'oretta, poi pacche sulle spalle, tronco rimosso da davanti l'autovettura, saluti, ringraziamenti e un monito. Il loro capo ci disse: siete stati fortunati perché è giorno, ma assolutamente, quando tornate indietro, non aspettate il buio, perché di notte tutto cambia e si uniscono a noi anche bande più violente. E nella notte non ci sono negoziati. Goes out to all area crew. Yes, yes, yes. This is my big gay crew. My QB crew. My ally crew. My Shine crew. My Dirty South crew. Atlanta. North Cackalack. For my fam. All area crew. What I want? How you feel? Feeling great. What you want? I wanna do with the death. What up with you? You know my Steve. True indeed. Say it loud. Black and proud. Ain't no time to hesitate at the gate. Do it now. You sneer. E immagino arrivi direttamente da là, da dove è ambientato il racconto, la foto che ci ha mandato Massimo e che trovate come al solito sulla nostra pagina. Voi siete qui Radio 24, è appoggiato a un muro, ha una scritta Rai OVAC sopra la testa, lui indossa un cappellino, degli occhiali da sole e un gilerino di quelli che fanno molto molto vacanza avventurosa. Pronto Massimo? Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene. Dove ti trovi in questo momento? Al lavoro. Che lavoro fai, me lo ricordi? Io vendo camion. Vendi camion? No, ma che sembra un lavoro che da bambino, cioè, uno si immagina magnifico. Diciamo che fino a un paio d'anni fa era così. Adesso un po' meno, dici? Adesso un po' meno, però fino a un paio d'anni era così. Ma vendi camion per una marca particolare o hai un concetto? Sì, per una marca, no, per una marca particolare, lavoro per l'Iveco. Ah, ok, insomma, la marca italiana, ci rappresenta ancora bene nel mondo l'Iveco. Sì, diciamo di sì, assolutamente. In Italia sicuramente ci rappresenta bene. Ok, dovete solo fare un video virale come quello che ha fatto la Volvo con Van Damme e poi siete a posto. È vero. E avete svoltato. Senti Massimo, torniamo là. Innanzitutto ricordami gli anni in cui accade tutto questo. Al 95, giusto? Ce lo scrivi in apertura. Quindi nel 95 il subcomandante Marcos era ancora, diciamo, adesso se ne parla un po' di meno, però allora era in auge. Eh sì, erano proprio gli anni in cui venne alla ribalta, sì. Era proprio quell'anno là, insomma. C'è stato un momento in cui veramente avete detto, boh, da qui non ne usciamo. Guarda, dicevo anche a Margherita, l'unico momento in cui ho avuto veramente molta paura è appena ci hanno accerchiato e hanno provato ad aprire la portiera della macchina ficcando le dita nel finestrino, alzando il... sai, quel piruletto che c'è della sicura, insomma. Sì, c'è il piruletto che adesso ormai è tutto elettronico, però all'epoca bravo, tu che lo tiravi su. Ma una volta non era così. Certo. E quello è stato il momento, perché io cercavo di far forza dall'interno per chiudere la porta e alzare il finestrino, e loro che tentavano di aprire la portiera. In poi quanti erano più o meno? In quanti erano? Ma guarda, tanti, penso oltre una trentina, erano proprio tanti. Ammazza. Hanno circondato la macchina, erano tanti, erano anche lì perché vivevano lì in quella giungla, quindi erano veramente tanti. Ed erano armati, proprio visibilmente. No, sì, armati di macete. Benissimo, sì. Confortante come situazione, giusto? Sì, devo dire la verità, sì. A ripensarci adesso, viene in quel momento, insomma, abbiamo avuto paura, sicuramente sì. Però ecco, ad esempio, in una situazione come quella, che insomma non capita a tutti, e fortunatamente non capita tutti i giorni, l'adrenalina come ti aiuta, ti fa stare... cioè, tu ti ricordi se sei riuscito a mantenere la calma, oppure era panico assoluto, cioè vedevi nero? No. Assolutamente, io ho mantenuto la calma e anche malgrado io avessi 24 anni allora, non voglio dire, non certo. è che ero comunque sia molto giovane, io ho mantenuto la calma e un po' mi ha rassicurato il fatto che il conducente insomma della Jeep sapeva parlare il dialetto Maya loro e quindi riusciva perlomeno a comunicarci. E poi niente, l'adrenalina ti aiuta e in quel momento ti passano in mente tante cose, fai la prima che ti capita e allora andò bene insomma. E poi tra l'altro a un certo punto tu vieni quasi colto da una forma di sindrome di Stoccolma, perché tu stesso dici, cioè in fondo sì, c'hanno sì. ragione loro. Sì sì, guarda, credimi, non so come mi sia venuto in mente in quel momento un pensiero del genere, ma mi è venuto in mente quello, ho detto beh, sinceramente hanno ragione. Loro, scusami, vivevano, tu hai visto dove vivevano? Vivevano in baracche? Vivevano guarda in... sì, più che altro me ne sono accorto la notte quando siamo ripassati di lì, perché c'erano le luci accese di queste baracche, le luci poi erano delle fiaccole accese di queste baracche e ce n'erano una marea disseminata in questa giungla. Con la luce del giorno non ce ne eravamo accorti, devo dire la verità, poi è successo tutto così velocemente, il tronco in mezzo alla strada, loro che ci hanno accerchiato, un casino fra chi urlava, chi agitava la macchina e il macete, quindi non si è capito niente. La sera invece poi ci siamo accorti che lì ci abitavano proprio, vivevano proprio nella giungla. Guarda Massimo, io ti ringrazio molto perché diciamo di questa puntata, di questa settimana in cui raccontiamo storie di avventura, la tua è decisamente forse la più rappresentativa, cioè quella che potrebbe uscire da un film che in qualche modo Vero. È un film di avventura. Ti ringrazio di tutto, in bocca al lupo, aspetto Grazie il video virale dell'Iveco allora. Sì, appena divento come Van Damme lo faccio. O tu, o se no tipo io mi vedo Yuri Keki in piedi sugli specchietti pure, di due. Potrebbe essere. Ciao Massimo, grazie mille. Ciao Matteo, ciao. Grazie a te, ciao. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Da quando sono bambino sento sempre usare la parola libertà. Viva la libertà! Lottiamo per la libertà, insieme per la libertà. E poi la casa, il popolo, il treno, la nave, il pullman della libertà. Iraqi Freedom, Free Willy, e poi il libero arbitrio, libertà e partecipazione, libera, liberi liberi e sempre libera. Dunque, è chiaro che il significato di questa parola è abbastanza complicato e sfuggente. Alcuni dicono che non siamo mai veramente liberi. Altri che dobbiamo conquistarcela giorno dopo giorno la nostra libertà. Altri ancora sostengono che la libertà non esiste. Poi un giorno senti un racconto come quello di Massimo e scopri che facendo un viaggio, non certo dietro casa, ma nemmeno così fuori dal normale, potrebbe succedere anche a te che per mezza giornata, o un'ora, o due, non sei più padrone del tuo tempo e del tuo spazio. Perché poi di quello si parla. Non puoi andare dove vuoi e non puoi andarci quando vuoi. Per il semplice motivo che qualcuno con la forza o con la prospettiva della forza ti costringe e ti priva della tua libertà. Ho letto tempo fa la storia di un uomo che si era autosequestrato in casa propria. Sì, aveva tentato una sorta di esperimento antropologico per cui aveva trascorso 6 mesi in casa senza mai uscire. Senza poter avere contatti con nessuno, senza TV, telefono, radio, giornali. Aveva fatto scorta di cibo per 6 mesi e tutto ciò che poteva fare era mangiare, muoversi per casa, andare in bagno, andare a letto, leggere i libri o le riviste invecchiate che gli erano rimaste in casa dal giorno del suo autosequestro. Aveva preso un'aspettativa dal lavoro, era entrato in casa e si era chiuso la porta alle spalle. Quando è uscito, dopo 6 mesi, ha ripreso ad andare a lavorare, dopo 2 anni si è sposato e oggi ha 2 figli. Insomma, è una persona normale, non uno squilibrato, per capirci. Nel pezzo che ho letto su di lui, sosteneva però che non si è mai sentito libero come in quei 6 mesi. Cioè, le prime settimane sono state terribili, lui dice. È passato attraverso giornate complicatissime in cui gli mancava tutto. Parlare con gli amici, i familiari, guardare la TV, mandare messaggi, usare internet, ovviamente, il telefono, tutto. Era come se la sua vita fosse concepibile solo in relazione agli altri. Poi ha fatto pace con se stesso. ha iniziato a vivere secondo i ritmi biologici differenti, ovviamente, e ha trovato una dimensione nuova e molto intima. Non ha letto tanto quanto immaginava, e quando è uscito non ha avuto il rigetto del mondo o della società. E l'unica volta in cui ha parlato di libertà è stato quando ha detto che, quando il suo corpo e la sua mente hanno iniziato a muoversi insieme, ha capito che aveva bisogno di molte meno cose di quanto pensasse prima di quell'esperienza. Continuo a pensare che un autosequestro sia una follia, ovviamente. Al contempo, però, continuo anche a pensare che la libertà sia un concetto sfuggente, una parola di cui si abusa con troppa facilità. Però, dalla storia di Massimo, ho tratto le mie istruzioni per l'uso. 1. Non c'è bisogno di essere sequestrati per assaporare la libertà. Basta uscire dall'ufficio. 2. Il subcomandante Marcos probabilmente non esiste. 3. Scegliere sempre molto accuratamente il proprio autista nella giungla. 4. La libertà non è quella che ci raccontano tutti i giorni. 5. Quando un uomo col macete incontra un uomo con il portafoglio, quello col macete ha sempre ragione. E a proposito del subcomandante Marcos, dopo la lista, prima di lasciarvi, voglio leggervi una notizia che mi ha appena mandato Margherita, che è una notizia del mese di maggio, secondo cui il subcomandante, o quello che diciamo ne incarna la parte, ha deciso di mollare. Dice: esiste ormai una generazione che può guardarci in faccia e ascoltarci e parlarci senza attendersi né una guida né una leadership, che non pretende né di sottomettersi né di seguire un capo, e dunque Marcos, il personaggio, non è più necessario. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Hina, Paolino Corleoni, grazie soprattutto a Massimo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.